UCI will ban Lance Armstrong from cycling, and UCI will strip him of his 7 Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. Time Like This, tempi come questi, Foo Fighters, questa è una delle canzoni preferite di Lance Armstrong, come ha lui detto e scritto, era sempre nel suo iPod durante i Tour de France taroccati, Tour de France che non esistono più. E io qui con me per parlarne e per parlare con voi tutti convocati, 800 24 00 24, il numero verde, ho chiamato Cristiano Gatti, che quei Tour de France li ha visti tutti, ne ha visti anche molti altri, ha visto anche quelli di Indurain, inviato del giornale Penna Storica del nostro ciclismo. Ciao Cristiano, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io adesso dico una cosa forte: il ciclismo moderno è morto ieri con la voce di Pat McQuaid che abbiamo sentito. Lance Armstrong non esiste più, cancellato dalla storia del ciclismo, è morto dopo una agonia iniziata all'inizio degli anni 90, lo dicono 7 croci sull'albo d'oro della corsa più importante del mondo, albo d'oro che comunque negli ultimi anni è già stato riscritto praticamente ad ogni stagione. Ieri Pat McQuaid ha detto che uno degli sportivi più grandi della storia era il diavolo in persona.